Siamo al telefono con Stefano, che tutti voi conoscete come Cisco, ex frontman dei Modena City Ramblers, poi anche con una bellissima carriera solista. E venerdì 18 gennaio, quindi venerdì questo, porterai al Mercato Sonato lo spettacolo Ad Aveni Baffone, che è un po' atipico per i tuoi standard, diciamo. Che tipo di spettacolo è? Sì, intanto saluto tutti gli ascoltatori. E hai detto bene, è uno spettacolo un po' atipico perché è nato come una sorta di spettacolo teatrale, diciamo. Spettacolo teatrale nel senso concerto teatrale, concerto in acustico, però in questo caso è intervallato da letture, da scritti fatti, letti da questo mio amico giornalista e scrittore che si chiama Carlo Albè, con cui abbiamo ideato lo spettacolo. Quindi il concerto, diciamo così, è un concerto che prevede alcune intromissioni lette, recitate da Carlo, che poi vengono, diciamo così, seguite dai brani suonati in versione acustica, brani che prendono spunto dalla mia carriera da solista, ma molto anche dalla mia carriera passata con i Modena City Ramblers. Tutto in versione rigorosa versione acustica, cioè in trio con chitarra, tromba e chitarra acustica e tamburo Bodran, quello che uso io dal vivo. Quindi senza la band al completo va, diciamo così, a sovrastare i racconti dello spettacolo. Senza fare spoiler, chi è un po' questo Ad Aveni Baffone? Chi è Baffone? Nel nostro racconto, nel nostro immaginario, Baffone è quella personalità che per anni, per decenni in Italia si è atteso e in qualche modo si è anche avvalorato, perché storicamente l'Italia ha sempre avuto bisogno di persone forti, o pseudo persone forti, che potessero garantire la pace comune, il bene comune del paese. A me viene in mente un Andreotti, anni 60-70, un Bettino Craxi anni 80, il grande Silvio Berlusconi negli anni 90 e 2000, poi possiamo continuare ancora, potrei dire il buon Matteo Renzi poteva essere il baffone di turno, oggi il baffone di turno senza dubbio è Matteo Salvini, quindi insomma siamo sempre alla ricerca del nostro baffone che venga a salvarci, a garantirci la quiete quotidiana e tranquilla del paese. Io credo che questo sia uno dei grandi difetti del popolo italiano, del nostro modo di pensare e che purtroppo ci ha sempre portato spesso a fare scelte sbagliate politicamente e quindi lo spettacolo vuole in qualche modo raccontare quella che è la storia del nostro paese negli ultimi anni e riderci anche sopra, perché non è una cosa troppo seria, è una roba anche da sorridere magari a denti stretti, ecco, diciamo così. Che fa sempre bene, direi. Dai Modena City Ramblers, dicevamo, ha una stupenda carriera solista, ha uno spettacolo di musica teatro come Ad Aveni Baffone, o teatro canzone, insomma, come vogliamo chiamarlo. E cos'altro possiamo aspettarci da Cisco? Ma guarda, nell'immediato ve lo dico, ci sarà a breve l'annuncio dell'uscita del nuovo disco che stiamo preparando, a breve intendo fine primavera, aprile, maggio, diciamo così, ci sarà l'uscita del nuovo disco che stiamo preparando, stiamo registrando, un disco che vede un passo importante per me perché per la prima volta collaboro con produttori e musicisti non italiani, il disco verrà, posso anticipare, siete i primi a cui lo dico, posso anticipare questa cosa, il disco Uno verrà scoop. terminato, in qualche modo, un piccolo scoop, verrà terminato, registrato a Austin, in Texas, e quello che sta uscendo sono cose molto, molto particolari, è nata questa sorta di collaborazione e la sto portando avanti, quindi nell'immediato ci sarà questa uscita del nuovo disco, la campagna di crowdfunding legata al disco e poi successivamente il tour estivo che speriamo di portare in più posti possibili per per suonare quelle che sono le nuove canzoni del disco, ma non solo, cioè i nostri vecchi brani a cui siamo sempre molto affezionati. Intanto grazie per lo scoop, è una notizia bellissima. Promuoveremo anche il crowdfunding, ovviamente. Vi ringrazio. Oltre a venerdì 18 qui a Bologna, ci saranno altre due date di Ad Aveni Baffone, che sono il 23 sì. febbraio a Settimo Torinese e il 24 a Pavia. Sì. Dopodiché promuoviamo anche il 17 marzo a Alba Adriatica a Teramo e il 22 a Saluzzo, Cuneo. A Saluzzo sempre con Ad Aveni Baffone, ci sarà anche a fine marzo Milano, Ad Aveni Baffone, data già fissata ma che ancora non ho inserito nella lista. Ci saranno altre date che verranno inserite a metà marzo e quindi insomma non mancherà l'occasione per vederci dal vivo anche in più occasioni, nel senso Ad Aveni Baffone continuerà fino ai primi di aprile, dopodiché lo sospenderemo e riprenderemo l'attività con la band al completo per poi, come dicevo prima, suonare al meglio anche i nuovi brani del nuovo disco e tutto quello che sarà lo spettacolo estivo dal 20-25 aprile in poi. Dopodiché, sì, insomma, si vedrà cosa salta fuori, nel senso che a me piace sempre mescolare le carte, non mi piace ripetere sempre la stessa cosa, quindi ultimamente, negli ultimi 5-6 anni, ho sempre distinto il fatto di fare un tour estivo intendo da primavera fino a settembre, con la band al completo, da con feste in piazza, feste dove si fa ballare, dove si cerca di fare più coinvolgimento possibile, invece dei concerti, dei tour molto più acustici, molto più d'ascolto nel periodo invernale, quindi teatri, quindi locali dove è possibile mettersi comodi e sentire la musica, e questa è la cosa che mi piace fare di più in questi ultimi anni. Faccio l'ultima domanda, che è un po' particolare magari. Sì. Allora, se dovessimo dedicare un tuo pezzo per dare un po' di speranza a questo mondo in questo momento, cosa potremmo fargli ascoltare? Che bella domanda. Sono indeciso fra due canzoni. Allora io scelgo due brani. Uno è Ebano, che è un pezzo che racconta, diciamo così, la storia purtroppo molto frequente di donne sfruttate e provenienti dall'Africa, e quindi è un pezzo anche sempre molto attuale, purtroppo. E l'altro è Anime di Passaggio, che sono un brano un po' più distaccato, se vogliamo, dove canto il mio modo di pensare, la mia filosofia della vita riguardo a tutti quelli che sono i grandi sistemi che manovrano il mondo in generale, o come da prendere la vita in generale. Grazie infinite, grazie mille per la disponibilità, e ci vediamo venerdì al Mercato Suonato. Ci vediamo venerdì, io vi ringrazio e aspetto tutti al Mercato Suonato, venerdì sera.